La vostra gioia e felicità anche oggi i fuori posto. I fuori posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. A tutti i fuori posto in ascolto diamo il buongiorno anche stavolta e anzi approfitto subito per ricordare in apertura, caro Filippo, i nostri contatti che sono i fuori posto @radio24.it oppure se volete lasciarci un messaggio alla nostra fantastica segreteria telefonica meravigliosa, il numero è 0246524182 oppure Filippo? Oppure SMS o WhatsApp al 349-2386-666. Allora, cari amici, purtroppo qui più passano i giorni e più Umberto è sempre più triste, perché le cose vanno male, perché la sua ex, nonostante lui stia usando la radio per fatti privati, per riconquistarla, non si è fatta più viva ed è veramente un cane abbandonato. Quindi vogliamo far partire subito la nostra rubrica Fuori Amore, no? Sì, giusto? bisogna. She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure. Ecco, se voi poteste vedere la faccia di Umberto, sempre più triste. Umberto, cosa si prova ad essere abbandonati dalla donna che si ama? Ti posso assicurare che non è bello. Non so perché devi infierire sulla mia vita privata. Hai cominciato te, adesso andiamo fino in fondo. Io sposterei il centro dell'attenzione, no? Sui nostri ascoltatori. Quindi la domanda che faccio è: se anche voi siete stati abbandonati come me, scriveteci anche sulla nostra pagina ufficiale Facebook, che è I Fuori Posto. Assolutamente, no? Fuori Posto. E raccontateci le vostre storie di abbandono. Ma in realtà io sposterei il baricentro, sposterei l'attenzione per raccontare di abbandoni ben più drammatici, no? Non che chi venga abbandonato in amore non viva un momento difficile, no. Ma in realtà abbiamo parlato di adozioni internazionali, certo, no? Abbiamo ascoltato la storia agghiacciante che ha impressionato il nostro pubblico, la storia di Anastasia, che per ben 16 anni ha vissuto in un orfanotrofio in Bielorussia, dove ha subito delle vere e proprie torture, sì. Delle cose pazzesche. E proprio perché l'argomento ha suscitato grande interesse, noi oggi abbiamo deciso di riavere Anastasia. Ci sei? Ci sono, buongiorno. Ciao Anastasia. Ciao Anastasia, buongiorno. Ciao. E grazie di essere qui e grazie per averci raccontato quella che è stata la tua esperienza molto drammatica. Io spero che sia di aiuto a qualcuno, a chi oggi ne ha bisogno, a chi oggi ha bisogno di qualcuno che l'ascolti. Ecco Anastasia, i tuoi racconti hanno impressionato i nostri ascoltatori, oltre che noi ovviamente, no? Ecco, possiamo tornare a quei tempi, a quello che ti succedeva dentro l'orfanotrofio in cui hai vissuto per 16 anni, non soltanto per ascoltare le tue esperienze, ma proprio affinché questo sia da monito per tutti coloro che devono operare e fare in modo che i bambini come te all'epoca vengano portati fuori da questi orfanotrofi e possano raggiungere le loro famiglie. Ecco, torniamo a quella tua vita di quei giorni di 16 anni in un orfanotrofio della Bielorussia. Non erano anni facili da vivere, anche se rientrava nella normalità. Erano delle punizioni di cui avevi il terrore ogni giorno. Ti svegliavi con il pensiero di comportarti bene, di non infastidire qualcuno. Qualcuno dei professori, degli educatori, giusto? Sì, di solito erano loro. Per che cosa potevano arrabbiarsi? Per i compiti fatti male, per degli errori fatti nel quaderno di scuola, diciamo, per un ritardo di un minuto a pranzo oppure all'ora di preparazione dei compiti. E tu e i tuoi amici quali violenze subivate? La punizione più triste, diciamo così, era una stanza piena di pigni a terra, dove che ci portavano con delle ginocchia nude. Cioè, vi spogliavano, no? Eravate nude? Sì, spesso o in mutando in canottierina, cioè, leggere o nude. C'era una maestra che gli piaceva tanto. E vi costringevano? Una maestra vi obbligava a mettervi nude in ginocchio. E per quanto tempo dovevate stare nude in ginocchio sulle pigne? Mezz'ora, a volte la maestra poteva distrarsi e andare a occuparci delle altre cose, tu restavi là per un'ora, anche due. Quali altre violenze subivate tu e i tuoi amici di orfanotrofio? A parte essere minati da qualsiasi tipo di oggetti, quello che capitava per la mano, era una stampella, era un libro, era un bastone, era un asciugamano bagnato, qualsiasi cosa, era un tappettino da sotto il divano, un letto. Insomma, tra di voi, no? Tra quelli più grandi, c'era qualcuno che provava, insomma, a ribellarsi a queste violenze? Chi si ribellava ovviamente subiva un'altra punizione molto più grave, e succedeva solitamente in gruppo, dove che il comando era di far menare ai ragazzi lo stesso coetaneo, cioè, era una cosa assurda. Cioè il branco, creavano le dinamiche da branco? Sì, ci chiedevano in una stanza grande dove che si facevano riunire tutti i ragazzi. A questo ragazzo che era in punizione lo mettevano al centro e si dava il comando di spudarli, di tirargli i capelli, di menarlo con i calci, con i pugni, cosa permetteva la propria fantasia. E tu, la fantasia e tu lo facevi? Non mancava. E anche tu hai partecipato a queste cose? Io ho partecipato a queste riunioni, ho partecipato, e è la cosa assurda vederlo, perché ogni dolore capisci che se ti ribelli tra due secondi stavi là insieme a questo ragazzo. E quindi anche tu eri costretta a sputare addosso al ragazzo che in quel momento era l'oggetto principale della punizione? Sì, e se non lo facevi eri punito anche tu. Senti, voi vivevate la vostra quotidianità all'interno delle mura di questo orfanotrofio con terrore, no? Sempre col terrore, perché non c'era un limite di dolore fisico. Come gli saltava in mente di menarti, così ti menavano, e potevi uscire blu, piangevi, singhiozzavi, nessuno ti ascoltava, nessuno poteva difenderti, soprattutto. Specialmente tu cercavi l'aiuto dei propri coetanei, perché nessun altro ti poteva aiutare. Ed erano sempre gli educatori, le maestre di quell'orfanotrofio, sì, a menarvi? Diciamo spesso sì, però a volte erano i ragazzi mandati dai professori per togliersi la responsabilità, diciamo. Ma c'era qualcuno dentro la struttura di buon animo, cioè qualcuno a cui rivolgersi per chiedere protezione? Erano tutti così efferrati, tutti i maestri, tutti gli insegnanti? Guardi, era una solita frase, cioè se tu una volta andavi e dicevi mi ha menato questa maestra, del direttore dell'orfanotrofio, il direttore ti rispondeva ti vedi che te lo sei meritato. Nessuno andava a controllare, nessuno voleva entrare in merito a questa situazione, e tu comunque una volta, due, alla fine ti senti indifeso e cerchi di difenderti da sé o convivere con questa problematica. Senti, a parte questo dramma della violenza che subivi quotidianamente, tu di quegli anni sei riuscita a portarti un ricordo bello? Belli, ce ne sono anche belli, perché sei costretta a trovarli, perché la vita non può essere sempre così. Perché sei costretta a trovarli? Tu vivi in un ambiente che comunque non è tuo, sei costretto a stare con dei ragazzi che poi diventano i tuoi fratelli, che spesso ti tradiscono per colpa delle maestre, quando che ti menano, quando che ti fanno la spia, qualsiasi cosa. C'era questa infiducia all'interno dell'orfanotrofio. Qual è il ricordo più bello che hai di quegli anni drammatici? Ricordo, ci sono tanti ricordi belli. Le solite camminate di 2 chilometri ad andare a scuola, si divertiva, si parlava, si confidava. Erano momenti davvero belli. I giochi che organizzavamo tra noi, perché il divertimento nasceva da dentro di noi e si cercava di tirar fuori le maestre, tutta la struttura, e fare da noi. Avevate dei giocattoli a disposizione, quindi? Pochissimi, c'era solo una stanza che era sempre chiusa a chiave. Grazie Anastasia, a presto, in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi. Umberto, anche oggi Anastasia ci ha raccontato delle cose allucinanti. Come dici tu prima, speriamo che questa non sia la regola in questi orfanotrofi della Bielorussia. Certo è che sono situazioni fuori controllo, perché poi quello che succede in questi orfanotrofi a quanto pare rimane dentro, no? Quella struttura, quella realtà, e non se ne sa nulla. Sì. Io pensavo che Anastasia era partita da... parlava di punizioni, no? In realtà poi quando è uscita dall'orfanotrofio ha capito che quelle non erano punizioni. No, erano proprio segni di torture, perché ci parlava di segni blu, no? Di lividi causati da percosse vere e proprie, cioè un inferno. Ecco, e io direi, per continuare questo nostro percorso, di collegarci con Cristina Bellocchio, psicologa e psicoterapeuta. Cristina si occupa da anni di mettere in contatto e di assistere tutte quelle famiglie che vogliono adottare un bambino all'estero. E ci sei, Cristina? Sì, buongiorno, ci sono. Buongiorno e benvenuto ai Fuori Posto a Radio 24. Allora, Cristina, queste lungaggini burocratiche, praticamente, no? Che traumi provocano nelle famiglie e nei bambini che aspettano di abbracciare finalmente quelli che saranno i loro genitori? Allora, intanto c'è da dire che la storia di cui avete parlato si tratta di una bambina che viveva in Bielorussia, quindi l'adozione in Bielorussia a livello internazionale è particolare perché i bambini si incontrano con i genitori e quindi si crea un vero e proprio legame, nel senso che questi bambini vengono ospitati due volte l'anno dai futuri genitori adottivi in Italia. Quindi per un totale di 4 mesi l'anno. Quindi c'è già un legame affettivo, no, che si crea tra, esatto, quelli che saranno i genitori adottivi e il bambino. Sì, si crea un legame affettivo per cui questi bambini chiamano mamma e papà questi genitori che saranno poi i futuri genitori. Per cui è molto difficile per questi bambini perché i tempi, che sono molto lunghi, poi provocano delle lacerazioni molto forti. Ecco, che traumi hanno questi bambini, no? Che segni gli rimangono nella psiche dopo un'esperienza del genere e in attesa poi di essere finalmente adottati dai genitori che li vogliono? Esatto, hanno dei vari traumi, intanto il trauma dell'abbandono, che è una ferita molto grande. A volte c'è anche il trauma dell'istituzionalizzazione, quindi l'esperienza in istituto, dove c'è la legge del più forte, dove spesso ci sono queste punizioni, e quindi siamo di fronte a un doppio trauma. In più il fatto di fare avanti e indietro con i futuri genitori adottivi provoca un'ulteriore sofferenza. Cristina, ricordiamo che questi bambini già hanno subito un abbandono, no? Perché già sono stati, esatto, abbandonati dai loro genitori naturali. Esatto, quindi quello di cui loro hanno bisogno è di avere una conferma quotidiana che i genitori ci saranno sempre come figure di riferimento e non subire un altro abbandono. Quindi fare continuamente avanti e indietro fa sì che loro si sviluppi una paura molto forte, che è quella di essere di nuovo lasciati, abbandonati di nuovo anche da questa famiglia. Temono il secondo abbandono, come se, esatto, come non avessero mai pace, no? Nella loro ricerca di un affetto, di un amore. Esatto, quindi il tempo che passa non è un tempo neutro, ma è un tempo che li fa vivere quotidianamente la paura di essere riabbandonati. E più il tempo passa, più questa paura diventa grande. Sono dei bambini sospesi, vivono alcuni mesi in Italia, in una famiglia, altri mesi tornano in istituto, dove la vita comunque è difficile, dove continuano ad avere delle carenze affettive e spesse volte ulteriori traumi. Quindi quando vengono in Italia questi bambini hanno quello che è il calore di una famiglia, hanno una mamma, un papà, magari anche dei fratelli, delle sorelle, e poi vengono, esatto, rispediti, cioè sono costretti a ritornare in questi orfanotrofi che in alcuni casi, mi auguro non tutti, certo, sono dei luoghi insomma molto difficili, no? Esatto, esatto. Poi parliamo di bambini piccoli che hanno bisogno proprio ancora di più del calore di una famiglia che possa aiutarli a superare i traumi subiti e dare una risposta del perché sia avvenuto l'abbandono. Ecco, ma una volta che finalmente poi riescono ad abbracciare la famiglia che li accoglie e che li cerca, riescono a trovare una stabilità emotiva? Sì, certo, perché per loro già sapere che non devono più ripartire, che quella è la loro famiglia per sempre, cioè loro trovano pace. Senti, sì, l'ultima cosa, per accelerare le pratiche burocratiche, cosa serve secondo te, alla luce della tua esperienza? È importante che le autorità lavorino in maniera competente e sistematica, perché spesso le lungaggini burocratiche sono dovute anche a delle carenze da parte degli organi istituzionali che si occupano di adozione internazionale. Ecco, perché ricordiamo che al centro di tutto c'è l'affetto e l'amore di cui hanno bisogno questi bambini, giusto? Certo, si parla di bambini, di persone e di traumi. Quindi non è come un ritardo su una compravendita, certo, di oggetti, certo, cioè si parla, Cristina, proprio di bambini. Grazie di essere stata con noi, grazie di averci raccontato queste, prego, cose, a presto. A presto. Umberto. Ciao Cristina. Vedi Umberto, quello che dice Cristina conferma a maggior ragione lo scandalo delle lungaggini burocratiche di questo CAI, no? Di questo Comitato per le Adozioni Internazionali, che è preposto a far incontrare genitori e figli e che, lo ricordiamo, non si riunisce da un anno e mezzo quasi. Sì, in realtà sono quasi due gli anni, nonostante sia stato richiesto, no, far riunire questa commissione. Peraltro da pochi mesi è diventato presidente del CAI il ministro Maria Elena Boschi. Noi approfittiamo per invitarla ai nostri microfoni, se vuole dire qualcosa, se vuole fare qualche precisazione o se vuole raccontarci se si sta smuovendo semplicemente qualcosa. Approfittiamo per ricordare anche i nostri contatti, Filippo. Fuoriposto, @radio24.it, oppure un messaggio in segreteria telefonica allo 02 455 24 182, oppure un sms o un whatsapp al 349 23 86 666. Raccontateci le vostre storie. Noi torniamo su questo argomento con una giornalista che ormai da qualche anno si sta occupando di adozioni internazionali e soprattutto del CAI. È con noi Stefania Pinna di Sky TG24, che ha scoperto qualcosa di molto interessante. Giusto, Stefania? Eccomi. Benvenuta presente. Ai Fuori Posto. Ciao Stefania. Grazie, ciao, ciao a tutti. Allora Stefania, tu ti sei occupata varie volte, no, di adozioni internazionali. Sì. Quanti casini stanno succedendo e perché queste lungaggini burocratiche? Che idea ti sei fatta? Allora, quanti casini stanno succedendo? Quanti ne sono già successi e quanti speriamo che ne vengano risolti a breve, perché alcuni sono stati già risolti. Allora, diciamo che io ho iniziato a seguire questo tema su invito di alcuni genitori che si sono rivolti a me. In particolare a genitori che da tempo aspettavano di adottare i loro bambini in Congo, tanto la vicenda del Congo, insomma, immagino l'abbiate nominata più volte, sì. Finalmente possiamo tirare sul sito di sollievo perché sono arrivati tutti, anche quelli di Goma, una vicenda che ha veramente avuto del paradossale, perché ci sono genitori che non hanno avuto notizie dei loro figli per un anno e mezzo, qualcosa di più, e altri che pur avendo notizie le avevano col contagocce. Ora, quello che loro ci chiedevano è: aiutateci a portare in un TG di primo piano come il vostro una cosa del genere, una storia del genere, perché oggettivamente se ne stava parlando poco. C'è stato il boom quando la Boschi riuscì ad andare in Congo per portare quei bambini, la ricordiamo tutta la storia delle treccine, e poi però più nulla. Quella del Congo è una situazione un po' particolare, lo dobbiamo dire, perché c'era in vigore fino a un certo punto un blocco da parte del paese, e vabbè. Ma oltre a questo, per quel che riguarda l'Italia, ci si è messa in mezzo appunto la burocrazia, la situazione, lo stallo in cui vigeva, uso il passato ma in realtà dovremmo usare probabilmente ancora il presente, anzi senza dubbio, in cui lo stallo in cui vige la Commissione Adozioni Internazionali, che è la massima autorità garante nel paese. Che cosa è successo? Non so se già ne abbiate parlato, io ve lo riassumo velocissimamente. Due anni fa è stata nominata come presidente della commissione Silvia Della Monica, un ex magistrato di Cassazione, fuori, sì, ruolo, ex senatrice, eccetera, eccetera. Ora, da quel momento non sappiamo perché, ma lei ha chiuso totalmente le porte della Commissione Adozioni Internazionali. Recentemente la presidente è diventata vicepresidente, perché adesso presidente è il ministro Boschi, che però ha per le mani tanta parte dell'attività governativa, per cui certo, diciamo poco, che al momento tempo. Ancora al momento ancora, per carità, è vero che è stata risolta la questione Congo, però di affari tra le mani ne ha ancora tanti, certo. Cioè di vicende da risolvere sulle adozioni internazionali. Ecco Stefania, tu che stai dentro le cose, perché hai condotto delle inchieste molto importanti, no? Ma come si fa a superare questo stallo? Allora, lottando, perché questo hanno fatto i genitori del Congo, lottando con le unghie e con i denti, perché non bastano, oltre a tutte le lungaggini burocratiche a cui vengono sottoposti i genitori, controlli di tipo psicologico, visite, documenti da presentare, eccetera. Poi a un certo punto arriva un muro, perché la Commissione d'Adozione Internazionale a un certo punto è diventato un muro, una commissione che non si è riunita per due anni, una commissione che ha preso decisioni in realtà in maniera autonoma l'ha presa la Presidente, che era anche vicepresidente. Cioè lei ha preso delle decisioni senza sì, riunire sola. La Commissione? Ma la Commissione? Sola, assolutamente, tra l'altro sì, tra l'altro mi domando anche se ci sia la validità proprio a livello giuridico, se sia legale, se sia valido, perché molti dicono di no. E va bene, ma poi quello che è stato secondo me imbarazzante, che lei abbia ingaggiato una guerra con un ente. Ora, tutto va bene, bisogna fare pulizia, se c'è qualcosa che non va, se un ente non si comporta bene, è giusto fare pulizia. Ma io mi domando, ma se davvero la Commissione delle Serietà Internazionali, se tu davvero, ex magistrato tra l'altro, hai dei dubbi sulla serietà di questo ente, lo blocchi in quel paese ma continui a farlo adottare in tutti gli altri paesi? Eh no, allora c'è qualcosa che non va. Dietro a questo sistema inefficiente, no? C'è qualcuno che ci guadagna? Io penso di sì, nel senso che intanto alcuni enti probabilmente ce l'hanno guadagnato, perché secondo me in questi anni, ma lo vedo anche dai dati, ma l'ho visto anche facendo nelle mie inchieste su Sky TG24, che probabilmente molti avranno seguito, visto che ormai siamo in onda anche sul canale 50 del Digitale Terrestre, ci sono stati degli enti che sono stati avvantaggiati dalla attuale vicepresidente. Spieghiamo cos'è l'ente, no? L'ente è quella organizzazione a cui una famiglia si deve per forza affidare nel momento in cui decide di adottare. Cioè sono perché l'anello di congiunzione, no? Esattamente, con la Commissione Adozione Internazionale, che invece rappresenta l'istituzione, rappresenta il governo, certo. Perché è un organo, ricordiamo che è una commissione che dipende direttamente dalla Presidenza del Consiglio. Certo. E chi è che può guadagnare grazie alle lungaggini, grazie al tempo che passa? Beh, alcuni enti ci hanno guadagnato, i genitori ci hanno perso, i bambini ci hanno perso, perché sono dei bambini che vivono in condizioni pessime. Perché ci guadagnano questi enti? Alcuni enti. Alcuni enti. Perché ci guadagnano? Esatto. Che non riuscivano ad adottare in alcuni paesi, e invece la Commissione Internazionale è riuscita ad attivarsi di modo che questi enti avessero le autorizzazioni giuste. Va bene Stefania, noi ti ringraziamo, sicuramente ci torneremo e se vorrei essere nostra ospite sarei gradita ospite. Ciao Stefania, grazie. Molto volentieri. Ti ringraziamo e approfittiamo. Non dimentichiamoci che in tutto questo le vittime vere sono i bambini. Diciamolo. Noi ti ringraziamo e approfittiamo anche per dire che sia io che te, che Radio 24, che Sky TG24, che Stefania Pinna restano a disposizione qualora il ministro Boschi oppure la vicepresidente Silvia Della Monica volessero intervenire. Noi restiamo esatto, a disposizione. I giusto? Nostri microfoni sono aperti, potete intervenire e dire la vostra, e sarebbe il caso, così finalmente riusciamo a capire dove andremo a finire con questa storia delle adozioni. Grazie. Noi ci fermiamo solamente per qualche minuto, ma torniamo qui sempre Fuori Posto su Radio 24. I Fuori Posto. Bentornati su Radio 24 e Fuori Posto. Oggi parliamo di un fuori posto per eccellenza, giusto Filippo? Sì, una persona che non ha trovato il posto al mondo. Forse l'ha trovato in questo momento dopo tantissima sofferenza, scrivendo un libro in cui ha raccontato la sua esperienza di uomo ma anche di figlio, perché è figlio di una persona molto importante, molto particolare. Sì, lui si chiama Piero Villaggio, è il figlio del famosissimo Paolo Villaggio, e pensate, ha scritto un libro dal titolo emblematico, si chiama Non mi sono fatto mancare niente. Dice tutto. Sì, perché Piero, pur avendo un papà importantissimo e anche ingombrante, ha vissuto il dramma della droga, no? Il problema, proprio in prima persona, il problema della dipendenza da droga. E quest'oggi ha scelto noi dei Fuori Posto per raccontare la sua storia, no? Ci sei, Piero? Ciao, ci sono, vi saluto. Saluti a tutti e ai vostri ascoltatori. Intanto grazie di questo intervento che facciamo insieme. Sì, io ho scritto questo libro per raccontare un periodo della mia vita, insomma, particolarmente difficile, nel quale io ho vissuto, senza retorica, purtroppo l'inferno della droga. Ho raccontato tutta la storia della mia tossicodipendenza, come ci sono arrivato, come ne sono uscito, e ho cercato di raccontare delle cose abbastanza drammatiche in maniera, passami il termine, leggera. Ho cercato di non caricarlo ancora di più di quello che già era comunque un aspetto drammatico. Piero, raccontaci, ecco, ripercorriamola questa vicenda. Tu quando è che hai iniziato a drogarti? Allora, io ho cominciato da 17 anni, avevo appena compiuto 17 anni, era il 1979, quindi molti anni fa, e ho smesso nel 1984, cioè andando a San Patrignano. Io poi, dove sono rimasto 3 anni, sono uscito nel 87. Ecco, e perché sentivo il bisogno di drogarti a quell'età, a 17 anni? Ma sì, io sentivo, mi sentivo sempre a disagio, mi sentivo sempre un pesce fuor d'acqua, mi sentivo fuori posto. E quindi, cioè, non è che avessi deciso di cominciare di drogarmi e fare il tossicodipendente, perché nessuno... Il tossicodipendente comincia dicendo io da grande voglio fare il tossicodipendente. Cominci e poi purtroppo ti accorgi che non esci più, anche se purtroppo uno continua a dirsi sì, io ne esco quando voglio, ma purtroppo non è così. Senti, senti Piero, sì. Se ti va, intanto grazie, perché sappiamo che magari non è facile parlare di certi argomenti in pubblico, ma ti ricordi la prima volta che ti sei drogato? Assolutamente sì, mi ricordo molto più la prima che non l'ultima. La prima volta io ero a Cortina d'Ampezzo, dove ho una casa dal 52, i miei nonni la comprarono quando Cortina non era quello che è adesso, 1952, io non ero neanche nato, comunque ho una casa da allora e ci sono sempre stato per fare le vacanze, anche ci ho anche vissuto un inverno perché facevo la regionale veneta di sci. Comunque sono lì con un mio amico e lui mi propone, per la prima volta in vita mia ne sento nominare, mi propone, mi dice guarda, io ho questa sostanza, la roba, perché a Roma così si chiama, e io senza assolutamente pensare a un gesto che mi avrebbe cambiato la vita in bene e in male, e con assoluta superficialità gli ho detto sì, gli ho semplicemente dato il braccio. Che roba era? Eroina? Era eroina, quindi non ho cominciato piano piano fumandola o niente, ho cominciato proprio subito la botta. Cioè, sì, hai iniziato a drogarti, quindi non con una canna, non con ma con l'eroina? Con l'eroina subito. Mi facevo qualche canna, ma proprio così, saltuariamente. Invece con l'eroina, disgraziatamente, quel giorno, ripeto, con gran superficialità e incoscienza tipica di quegli anni, io ho detto sì e niente, l'effetto è stato devastante perché... di botto credevo di aver trovato la mia panacea, perché è sparita la timidezza, è sparita il non sentirsi adeguato, niente, mi sono sentito a posto, assolutamente, tanto che io pensavo, dico, ma dovrebbero suggerirla nelle scuole. Ecco Piero, tu sei il figlio di Paolo Villaggio, quindi vieni da una famiglia abbiente dove problemi economici non ce n'erano, ma l'eroina costa tanto, tu come ottenevi i soldi, eri piccolo, eri giovane, per acquistare la droga? Ma guarda, inizialmente il mio problema era molto semplice, perché appunto io avevo una disponibilità economica chiaramente che non comune per un ragazzo di 17 anni, però io non ero uno di quelli che vanno in giro con i macchinoni o nei ristoranti o che fanno i fichi, no, spendevo i soldi, cioè dovevo andare in banca prima che la banca chiudesse, ed è stata la ragione per la quale i miei hanno cominciato a sospettare, proprio perché spendevo troppi soldi e loro non capivano come li spendessi questi soldi. Certo. E chi se ne è accorto per prima tra i tuoi genitori? Tuo padre o tua mamma? Allora, prima di tutto se ne è accorta mia sorella, che ha fatto presente ai miei genitori che c'era qualcosa che non andava. Dopo quanto? Sarà passato 8-9 mesi, forse un anno da quando ho cominciato. Sai, all'inizio è facile tenerlo nascosto, perché presso a poco... ti ho detto, i soldi non erano un problema, il resto io abitavo da solo con mia sorella, io a 12 anni siamo andati a vivere a 50 metri dai miei genitori, nello stesso comprensorio, ci divideva un prato, ma avevamo un appartamento da soli, e quindi è facile nascondere, è facile... Piero, e quando tuo papà, Paolo Villaggio appunto, ha scoperto che ti drogavi, che ti ha detto, come hai reagito? Ricordo che lui rimase basito, anche perché non si sapeva bene, cioè l'eroina, adesso abbiamo una consapevolezza diversa, in quegli anni non se ne sapeva quasi niente, e quindi mio padre è rimasto, cioè, non sapeva che pesci prendere, quindi ne ha provati diverse, anche perché poi io lamento un'assenza dei miei genitori, io non dico che loro sono i responsabili, anche perché sarebbe troppo dire, è colpa loro, non è colpa loro, loro hanno solo, cioè mio padre era in un momento di grande successo quando nasceva Fantozzi, quando cominciava a diventare un attore a tutto tondo, molto famoso, richiesto da tutti, e quindi era distratto, diciamo così, dal suo impegno, dalla sua professione, mia madre era sempre con lui. Quindi mi pare di capire che se c'è una cosa che rimproveri a tuo papà Paolo è che era poco attento verso di te, verso il figlio. Sì. Ecco, gli rimprovero un assenso in un momento nel quale io avevo bisogno di una guida, di qualcuno, anche di ogni tanto di un no. Ecco, lui non c'era, ma in assoluta buona fede, perché appunto era impegnato, andava in giro. Sai, le persone famose sono assolutamente uguali a tutte le altre, con i pro e con i contro, quindi non è che sono speciali. Lui ha fatto un errore che probabilmente avrebbero fatto altri genitori. Quando se ne è reso conto, poi ha cercato di metterci una pezza, però anche lì non sapeva. Pensa che c'è stato un momento che addirittura per evitare che io facessi cazzate, mi dava i soldi per un breve periodo, allora pensavo disgraziatamente un breve periodo, ora chiaramente no, ma per un breve periodo lui ha detto aspetta, allora prima che la situazione si aggravi, guarda, io ti do i soldi. Poi per fortuna è stato consigliato in altro modo, ma ripeto, non c'era la consapevolezza che c'è adesso. E tu in quel periodo eri un ragazzo, cosa pensavi di tuo padre? Beh, guarda, in quel periodo, nel periodo specialmente iniziale, io pensavo solo alla roba. Ma te lo dico sinceramente, onestamente, del resto non me ne giocava niente. Ma tuo padre come lo vedevi? Che figura era tuo padre per te? Era un personaggio, mio padre è comunque un personaggio molto ingombrante, molto egocentrico, come molti che fanno il suo mestiere, peraltro. Quindi è abbastanza difficile da averci anche un rapporto. Io adesso, ormai sono anni che ho per fortuna un buon rapporto con mio padre. Ecco, tu in passato gliel'hai contestata, quando eri giovane, la sua assenza nei tuoi confronti? Beh, più che contestata gliel'ho fatto presente. Gli ho detto, ma siccome lui più volte mi ha detto, Piero, sai, non è stato facile quel momento. Io ho detto, ma papà, non è stato facile neanche per me. Anche perché io evidentemente mi aspettavo qualche cosa di diverso. Ci stanno arrivando tantissimi messaggi, no? Per esempio, sì. Francesca ci ha appena scritto al 349-2386-666, ci ha scritto che fortuna avere un papà come Paolo Villaggio, no? Ecco, questo messaggio di Francesca, no, mi ispira a una domanda, no? È vero, sicuramente per certi aspetti è una fortuna, ma dalle tue parole mi pare di capire che forse è anche un peso, no, avere un papà così famoso e così ingombrante. È senz'altro un peso, però parliamoci chiaro, siamo onesti. È sicuramente, cioè, fra i pro e i contro sono maggiori i pro di avere un papà così famoso, benestante, che non ti fa mancare niente, però poi quando ti trovi in quella situazione auspichi che tuo padre, oltre a quello, sia anche la persona appunto che ti dia una guida, che ti dia, insomma, non è facile. Senti, Piero, tu sei arrivato anche in alcuni passaggi del libro, no? Avvertito un odio per tuo padre Paolo Villaggio, o sbaglio? Beh, no, un odio forse no, però un certo rancore allora ce l'avevo, perché non capivo il perché, appunto, questa difficoltà nell'avere il rapporto con mio padre, non capivo perché lui aveva fatto certe scelte, e quindi un po' di rancore c'era. Le scelte che gli contestavi, che non ti piacevano di tuo padre, quali erano? Per esempio quella di non esserci quasi mai, per esempio quella di delegare molto spesso ai vari... al suo agente piuttosto che al commercialista, piuttosto che alla babysitter. Cioè, tu all'epoca tuo padre quante volte a settimana lo vedevi? Quante volte non lo so, ma anche quando lo vedevo era per poco tempo, perché comunque, sai, il lavoro del cinema, adesso senza voler far niente, cioè senza togliere niente a nessuno, è comunque un lavoro impegnativo di tante ore, quindi che tu faccia l'elettricista o l'attore chiaramente è diverso. Cioè, ma per ore... capire, no? La sera capitava che stavate la sera a cena, sera, come tutte le famiglie normali? Raramente, no, raramente, molto raramente, perché comunque io cenavo prima, lui cenava dopo perché arrivava più tardi a casa, spesso uscivano con mia madre, quindi lo vedevo poco, poi spesso andava fuori per lavoro, i film li giravano quasi tutti fuori, quindi io lo vedevo poco, sinceramente lo vedevo poco, ma questo non è proprio una giustificazione, perché mia sorella ha passato le stesse identiche mie situazioni, eppure non ha combinato niente. Quindi possiamo dire che in quegli anni sei stato un po' un coglione? Assolutamente, levaci un po', sono stato assolutamente un coglione. E poi, voglio dire, mi faceva anche comodo come situazione, perché uno potrebbe anche dire, sai, poverino. No, mi faceva comodo di non dover chiedere niente, di avere sempre tutto, di non dover... Io, fino a 25 anni, non sapevo neanche che cos'erano... Cioè, andavo dal commercialista e gli lasciavo dei fogli, ma non sapevo come si pagavano le tasse, non sapevo niente. Ero un imbecille. Possiamo dare un messaggio a tutti quelli, a tutti quei ragazzi che vivono il dramma della droga, netto, preciso? Guarda, io ho scritto questo libro più che per dar messaggi, ho raccontato la mia storia. Ti spiego, perché io te lo dico velocemente, io ho fatto dei racconti, siccome sono tutti episodi che vanno fino al 1987, che quindi tanti anni fa, io parlando con mia moglie, gli raccontavo, gli facevo dei racconti, quelli che poi sono nel libro, e lei rimaneva basita, mi dice, ma guarda che devi scriverle queste cose, non le perdere, poi che tu lo pubblichi o meno è un altro discorso, ma fallo. E io così l'ho fatto, ho raccontato né più e nemmeno la mia storia. Oggi a 53 anni, ti senti a posto o fuori posto? Un po' tutte e due, non mi sento assolutamente né a posto né fuori posto. Adesso ho una vita diversa, ho un'azienda agricola, faccio il mio lavoro. Cosa ti manca per essere felice? Probabilmente una gratificazione professionale, che stando dietro all'eroina per tanti anni e per altre ragioni non ho seguito, e quindi bene o male una gratificazione professionale, quella sì, quella mi manca. Vorresti dire qualcosa a tuo padre Paolo Villaggio che non gli hai detto, e approfittare adesso, perché sai, magari uno quando ha di fronte una persona non ha il coraggio, si imbarazza a dire certe cose. Guarda, io nel tempo sono riuscito a trovare il modo di dirgli quello che volevo, e probabilmente anche lui è riuscito a trovare il modo di dirmi quello che voleva. Gli posso solo dire che gli voglio tanto bene, ma non è una stupida frase, è veramente così, anche perché poi mio padre adesso è grande, ha 85 anni, quindi spesso mi fa tenerezza. È stato un rapporto difficile, però sono sicuro che lui mi ha sempre voluto bene e io viceversa. Grazie mille, Piero. Grazie a tutti. Ciao. E va bene, abbiamo appena sentito Piero Villaggio, il figlio di Paolo Villaggio, che ci ha raccontato la sua esperienza e il suo rapporto con la droga, quindi di quando è stato veramente fuori posto. Ecco, ricordiamolo, l'ha detto anche Piero, la droga fa schifo, soprattutto se in forme e soprattutto se è un certo tipo di droga, no? Cioè lucendolo, fa schifo tutta perché lucendolo pesante. Aspetta, ecco, ripetiamo quello che ha appena detto Piero, la droga fa schifo. Diceva anche le canne, se fatte tutti i giorni, tante al giorno, ti rincoglioniscono, no? Lui ci è andato pesante perché faceva uso di eroina addirittura, sì, no? Per quasi 15 anni, insomma, per parecchi anni. Sì. Se anche voi avete da raccontarci le vostre storie, le vostre esperienze da fuori posto o da chi ha trovato un posto, scriveteci a ifuoriposto@radio24.it, lasciateci un messaggio in segreteria allo 02 465 24 182, oppure WhatsApp al 349 23 86 666, oppure se volete potete andare sulla nostra pagina ufficiale Facebook I Fuori Posto. Noi ci fermiamo per pochi minuti. Non andate via, mi raccomando. I Fuori Posto. La stessa spiaggia dotarci un contrato, lo stesso mare color cioccolato, la stessa gente. Ma è possibile che noi dobbiamo rientrare, no? Con questa canzone, cioè, mi viene la pelle d'oca. Sì, Umberto, ormai non c'è più niente da fare e Ciruzzo Tozzi rimane il nostro consulente in tema di economia. Non c'è niente da fare. Cioè, ci siamo arresi così. Ci siamo arresi. Alziamo bandiera bianca e affidiamo ormai definitivamente il nostro angolo dedicato all'economia a Ciruzzo Tozzi. No, io voglio fare un ultimo tentativo. Guarda, dopo il fallimento con Mario Monti. Chiamiamo Ricucci. Ah, Ricucci per esempio potrebbe parlarci di fiscalità. No, ma mi sa che Ricucci in questo momento ha altri problemini. Diciamo, quindi non è rintracciabile, mi sa, in questo momento. Perché forse Ricucci, no. Cioè, meglio Ricucci di Ciruzzo Tozzi, capito? Diciamo, rispetto a Ciruzzo Tozzi, Umberto, sei meglio anche tu in economia, guarda. Grazie, molto buono. Potresti andare bene anche tu. Comunque, dobbiamo richiamare Ciruzzo? Non abbiamo altre alternative, c'è tutto. Chiamiamolo, magari non ci risponde oggi. Speriamo. Magari non ci risponde e noi improvvisiamo, io e te. Dai, magari parliamo io e te di economia, forse è meglio. Meglio, dai, sempre okay. Meglio. Proviamo a chiamarlo. Ecco, pronto? squilla però non risponde, vedi? Oh. Madonna, dico una volta qui che stanno qua, mamma. Oddio santo, come l'altra purtroppo, volta questo. Purtroppo c'è. Pronto? Sì? Un attimo che c'ho la Rai in linea, ragazzi. La Rai in linea? Stai Radio 24. Senti. È Radio 24. Sì, ma io sono la Rai, un attimo solo, scusate ragazzi. Vabbè, un po' di rispetto. Stai su Radio 24 e parli con la Rai, Ciruzzo. Giletti? Cioè, preferisci Giletti a noi? Un attimo, Giletti, fammi una cortesia, la barba un po', fammi un po' la barba. Fammi un po' con la Giletti che gli fa la barba, che fa? Ma che diventano barbiere, Giletti? Giletti. Ma che cazzaro, mamma mia. Giletti. Oh, ah, Giletti. Ah, ah, la marca delle lamette. Ah, ah no, Giletti. Giletti. Pronto? Oh, sì. Senti, scusate, ragazzi, ma io c'ho da fare. Io vabbè, non posso Ciluzzo, per lo meno che mi chiamate la mattina. Io c'ho la Rai, mo adesso c'ho Mediaset. Sì, però la BBC, chi te cerca? Sì, Al Jazeera. Ma non solo Mediaset, eh? Ah, non solo? No, e chi? Che c'hai? Dicelo. Mediaset, Media 8 e Media 9. Ah! Che battuta! Cioè, scusa, cioè, non sei contento di fare questo collegamento con una radio molto prestigiosa, Radio 24, no? Beh, diciamo ragazzi che lo faccio più per voi perché ma siamo noi ti stiamo dando la possibilità. Ma ha detto il direttore vostro, ha detto guarda Ciluzzo se puoi fare un po' di collegamenti questi qua proprio non ci sono più. Ma veramente hai parlato con il nostro direttore? Certo, devo alzare un po' il livello della secondo me è una bugia. L'impressione che sia una bugia. Ragazzi, mi chiamate il direttore così mettiamo. Vediamo se ti mettiamo alle strette, eh? Ti mettiamo sta qua e mo glielo chiedo e così fai una figura in diretta. Oh, ragazzi, parliamo di economia, ecco, e cambia argomento. Cioè, guarda caso, quando viene messo alle strette, no? È un grande classico. Lui che vuole parlare sempre di marchette, di date. Sì, cazzi suoi, le date, le serate. Ora vuole parlare di economia. Vabbè, parliamo ragazzi, grande tournée, eh? Ah, grande tournée? Ma di chi? Di sto chi? Facendo concerti per tutte le parti. Ma concerto dove? Con una cosa unica al mondo. Ma dove li stai dove li stai tenendo questi concerti? Ma dovunque, Inghilterra. Sì, Inghilterra. Ma addirittura internazionale. Ma sì. E intanto partiamo, dov'è l'Inghilterra? Perché dobbiamo partire America, dal sì, Michael Jackson. Ma cioè, dove? America, Rio de Janeiro. Sì, cioè tu vai in America e è un pubblico pagante, cioè che ti paga? Sì, paga. Paga, è certo che paga, tutti pagano, che significa? Sì. Nello spettacolo si fa che paga, no? E quanti paganti fai in America, per esempio? Dove intanto? In America, dov'è l'America intanto? In America sta in mezzo al mare, cioè questa... Ma, sì, ma dove di preciso? In quale mare? Vicino al mare americano, cioè un mare... Sì, ma che mare? Guarda, e quali sono i monti dell'America? C'è una catena montuosa molto famosa, no, in America? Come si chiama? Ragazzi, allora la tournée, voglio dire, parliamo della tournée che stiamo passando. Vabbè, parliamo della tournée. Vabbè, quindi ma perché dobbiamo parlare? Che c'entra la geografia ogni collegamento? Insomma, dicevi, quindi Brasile, Stati Uniti, poi dove? Inghilterra, Wimbledon, dove vai? Wimbledon? Sì, anche là sono stato. Avevo fatto un concerto proprio a Wimbledon. Ma a Wimbledon si gioca a tennis? Che c'entrano i concerti? Io ho fatto un concerto, si giocava a tennis. Cioè, sei stato a Wimbledon, hai riempito Wimbledon, che è uno stadio grandissimo. No, loro giocavano dentro, io faccio il concerto fuori. E che senso ha, scusa? Che senso ha fare un concerto? Chi ci stava a sentirti? Perché io che cosa ho fatto? Ho fatto una furbata. Quando praticamente ho fatto questo concerto, ho fatto sentire la gente. Guardate ragazzi, sto a Wimbledon, guardate quanta gente. La gente sentiva per radio, era tutta questa gente, che si lava. Che cantavi fuori Wimbledon? Che cantavi? Quale successo dei tuoi cantavi? Quale successo che cantavo dei miei? Sì. Che potevo cantare? Cantavo, ho fatto Nunzia, ho fatto tre mesi. Ho fatto poi un pezzo nuovo, proprio per l'occasione. Ho fatto 6264, un pezzo si chiamava. Ah, 6264, giustamente è una canzone tematica. È una nuova hit, 6264. Stando a Wimbledon. Per l'occasione, la sigla. Però che artista, Evane Posti si adatta. Sì, sì. Vuoi sentire un poco? Peraltro ha vissuto... La faccio sentire? Vai. Allora, okay, Ciluzzo Tozzi canta 6264, vai. Sentito? Cioè, fuori, il rumore della pallina con noi è proprio come colonna sonora. Posso dire che questo è il momento più basso della radiofonia italiana. L'hanno scelta come colonna sonora lì, Ah, come colonna sonora addirittura. c'è da crederci. Quindi ti pagano i diritti, la SIAE prendi. Sì, ma ragazzi, la SIAE è importante, noi come cantiamo le nostre cose? Ovviamente abbiamo divagato anche sì, quest'oggi. Sì, perché se non sbaglio dovevamo parlare di economia. Sì, però insomma manca un minuto, quindi approfittiamo, no? Ah, ecco. Allora, un consiglio a chi ci ascolta ai risparmiatori, no? Allora, qual è il modo migliore per investire i propri risparmi? Se io ho 1000 euro, no? Sì. Che devo fare? Beato te, c'hai 1000 euro? No, non ce li ho in realtà. Le dai a me. Ah, li do a te. Che ci fai tu, scusa? Tra un mese io ti faccio diventare 1200 euro. E come? Come? Quindi un 20% di incremento. Non è male come guadagni, in che modo? Non ti preoccupare, io le presto un altro. A chi è presto? Tutto un giro, non lo spiegare queste cose. Io le presto un altro. No, e poi... no, cioè è una cosa legale, tutto regolare? Tutto regolare, andiamo a vedere mo, andiamo a prendere al cappello. Mo. Non sono cose che. Guarda, sto fatto che lui, no, da 1000 ti dà 1200 mi interessa. Quindi magari. Vedi, alla fine quando uno vede i soldi che aumentano non se ne frega niente, come li fa, poi, diciamo. No, che se non se ne frega niente, deve essere un modo tracciabile, legale. Sì, vabbè, ti conosco, vabbè, ok. Ma che mi conosco? Ma come ti permetti? Chiudetemi Ciruzzo, siamo arrivati alla fine anche per oggi, per fortuna. Pure oggi chiudiamo miseramente quest'angolo di Fuori Economia. Però devo dire sta cosa di 1000 euro, 1200 euro in un mese. Sì, chissà come. Certo, il problema per noi è alla base perché non abbiamo i 1000 euro da investire. Comunque, Umberto, stai sereno perché probabilmente stasera ho un appuntamento telefonico con Giuliano Amato, il professore. Ma comunque, se anche voi volete investire e dare i vostri soldi, i vostri risparmi a Ciruzzo Tozzi... E non so quanto vi convenga, scriveteci ai fuoriposto @radio24.it oppure lasciateci un messaggio in segreteria telefonica allo 02 465 24 182, oppure un oppure whatsappateci o sms al 349 23 86 666, oppure scriveteci anche sulla nostra pagina ufficiale, che qual è, Filippo? Facebook i fuori posto, come molto la nostra trasmissione. Siamo due grandi originaloni. A domani.